Allora, dove sono i pizzaioli? Siamo qua. Siete pronti per Vittorio? Sì, sì. Via, allora potete dare fuoco, eh? E luce. Allora, un po' di silenzio per piacere, eh? Ecco, mentre accendo, adesso, appena accendo, un po' di silenzio, che diciamo la preghiera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Signore, la Tua benedizione santifica tutte le cose. Benedici questo fuoco che arde in onore e ricordo del martirio di Santa Caterina, nostra patrona. E concedi a quanti partecipano con spirito di penitenza a questo sacro rito di ottenere per l'invocazione del tuo santissimo nome la salute del corpo e la protezione dell'anima per Cristo nostro Signore. Sì, sta lì a reggere. E viva Santa Caterina! Evviva! Padre Bovini è scappato.